24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Buongiorno, siamo qui, sono le 6:32 minuti, siamo vivi, siamo sopravvissuti. Ci siamo tutti, siamo tranquilli, siamo rilassati. Chi lo sa, il consiglione. But please relax. 349-238-6666, se volete mandarci messaggi, se volete dirci se siete sopravvissuti, sì, penso proprio di sì. Saluto, prima al bar, dai, poi saluto gli avventori, ovviamente, perché qua al bar è la bella Nicole. Volentieri a tutti quanti. Nessuno che le tocchi le tette nel parapiglia, mi raccomando. E caffè offerto a tutti, come sempre, da Nicole Minetti. Voglio salutare Mario Adinolfi, buongiorno, del Partito buongiorno, Democratico. Buongiorno, eccomi qua, buongiorno. Oggi vi devo far ascoltare delle cose che voi non potete neanche immaginare, cose che voi umani non potete immaginare. Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato, conduttore di Quinta Colonna, ma già in ferie? Sì. Abbiamo fatto lunedì l'ultima puntata. Molto previdenti, prima dell'arrivo dei Maya. Ovvio. Allora, voi come sapete, ogni tanto vi mandiamo dei messaggi nella segreteria, ci telefonano, mandiamo, poi li sentiremo qualcuno, ma vi devo far ascoltare una cosa straordinaria. Allora, noi abbiamo un ascoltatore, io me lo immagino anche fisicamente, deve essere una persona coltissima, abbastanza anziana, mi sembra dalla voce napoletana, mi sembra dalla voce, una di quelle persone talmente colte che solo Napoli può produrre. Io me lo immagino che fa colazione in giacca e cravatta e sopra la vestaglia e poi ci chiama ogni tanto, e oggi sentite, Mario Adinolfi, sentite, Paolo Del Debbio ci ha mandato questa. Addio monti, sorgente dai casini sparsi qua e là via agghincianti come pecore pascenti, addio. Quanto è triste il passo di chi allo sbocciare del mandorlo dovrà lasciare il monte e tornare al campicello del natio borgo. Addio passera, che dalle frattine e dai lontani tetti delle magioni illustri occhieggi a solitario passerotto di Bersani. Addio per sempre, chiesetta dove alle compiangenti 3.000 lavoratrici nel vetusto velo ultra sessantenne raccolte la vispa lacrimevole Fornero preparò il rito sacrificale di 15 anni di contributi e di lavoro. Addio pensione per sempre. Addio casa oggi straniera sogguardata di soppiatto all'ombra del folto IMU. Addio Italia che non c'è destra né ridesta e che segretamente piange sulla barca alla deriva. Addio Don Lisandro, che nessuno meglio di te sa ascoltare messaggi e grida dei tuoi 25 ascoltatori. Addio. Vabbè, ma Del Debbio, ma che pascoli, o Carducci, o Boccaccio, c'è Quangiolieri, ma chi sono? Ma avete sentito cosa ci ha regalato questo ascoltatore? Ma io lo vorrei abbracciare, abbracciare. Adinolfi, abbracciamolo tutti, ti prego, abbracci. Grandissimo, grandissima performance. Peccato che altro che addio. Mario Monti, proprio addio, proprio no. No. Adinolfi, addio proprio no. In campo, non so se torna a fare il premio, francamente, però è in campo, insomma, è in campo. Vedremo poi con che forma, perché ancora non ho capito bene. Ieri il transatlantico si agitavano varie versioni della presenza di Monti alle prossime elezioni. Stai a vedere che farà Del Debbio, che farà Mario Monti? Non lo so, sembra che fa le riunioni con quel gruppettino di centro. Il gruppettino. A quel gruppo lì i voti li riporta, cioè Casini ci li ha per conto suo un po'. Montezemolo non ce ne ha, probabilmente li riporta lui, ho visto che poi ci stanno tutti, CL, le ACLI, insomma, ha messo insieme tutti i movimenti cattolici. E ha detto torna la Democrazia Cristiana. Sembra Gedda più che Monti. Chi sembra? Gedda. Ah. Sembra i comitati civici di Luigi Gedda. Sì, c'è da dire che oggi ci sono delle... Allora, se le foto... Dalla Bocconi a Gedda. vita. Insomma, se le foto raccontano tante volte più cose degli articoli, dovreste vedere la foto pubblicata a pagina 5 della visita di ieri di Mario Monti a Melfi, dove c'è stata, insomma, importanti investimenti della Fiat. C'è Mario Monti di spalle e sullo sfondo si vedono Marchionne e un cardinale. Mario Monti da dietro è leggermente ingobbito. Se uno aumenta un pochino la gobba e allarga le orecchie, proprio è Andreotti, la Democrazia Cristiana, il ritorno. Questo è. Ad Inolfi, la verità è che avete una gran paura, soprattutto voi del Partito Democratico, diciamo la verità. Credo che i voti non venga a toglierli a noi, prevalentemente li toglie all'ambito del centrodestra. Questa è una concorrenza in campo moderato. Berlusconi, tra l'altro, lo voleva addirittura come capo dell'area moderata, insomma, quindi non credo che la problematicità sia per noi. Anzi, vi rivelo un segreto: in termini tecnici, al Senato la presenza di un centro forte dovrebbe rendere più agevole per noi l'affermazione in termini di maggioranza assoluta, perché il Senato, il premio per la legge elettorale è regionale, quindi chi arriva prima nella regione si prende il pacchetto più grosso di senatori, e il dubbio era che non si riuscisse a fare la maggioranza al Senato. Forse con un'area moderata spacchettata in questa maniera la questione diventerebbe tecnicamente più agevole, quindi si è raccontato molto di una difficoltà del centro-sinistra rispetto alla presenza di Monti in campo. Credo francamente che la difficoltà maggiore l'avranno il centro-destra. E infatti Berlusconi vuole attaccarlo. Tra l'altro Berlusconi, uno che l'ha incontrato adesso di recente, è proprio Paolo Del Debbio, no? E poi ci sarà anche da parlare magari di Berlusconi e questa esondazione nelle TV del Debbio. E come mai esonda così tanto? Va tutto bene così? Ha detto che era tanto che non ci andava e che ci voleva tornare. Insomma, vuole recuperare un po'. Recupera. Sai, come quelli come con il Giro d'Italia, sai quando rimane in giro una tappa, no? No, io l'ho detto, infatti ho fatto l'appello tipo a radio, TV radio a Cireale, se vogliono magari, insomma, 5 minuti potrebbe anche, se fanno una richiesta a Palazzo Grazioli. Non è poco da scherzare, quello ci va davvero. No, infatti, non è da escludere. Ma non è da escludere che lo vedremo anche. Infatti. Schiscio come dice Milano. No, però c'è da dire questo. Noi vi abbiamo fatto sentire l'ascoltatore, c'è gente che ci chiede: ma Bach in sottofondo l'ha messo lui? Beh, no, addirittura no, l'abbiamo messo noi, ci siamo permessi di montare sotto la poesia del nostro caro ascoltatore una musica che sembrava consona. Ma non è l'unico che ha cantato ieri Del Debbio, c'è gente che si è permessa di cantare in Parlamento, lo sa Del Debbio? Cioè, no. ha preso la parola e si è permessa in maniera impropria, perché in Parlamento non si canta, cioè vi faccio ascoltare questo mascalzone deputato che ieri ha, poi magari lo riconosce dalla voce, sentiamolo Del Debbio. Adesso voglio una norma che mi permetta di costituire stasera un gruppo parlamentare, tra l'altro la componente è quella dell'onorevole La Russa, il gruppo di Fratelli d'Italia è esattamente un gruppo, diciamo, contiguo a quello dell'onorevole La Russa, composto tra l'altro dai miei amici Meloni, Crosetti. Allora, sapete che faccio? Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. Io le chiedo scusa. Smetta. La richiamo comunque perché non è, tra l'altro non è neanche molto intonato. Del Debbio, ha sentito? Chi è sto mascalzone? Non lo so. Adinolfi, chi è sto mascalzone? Noi abbiamo Miriam Lucchetti. Miriam Lucchetti qui in redazione arriva, inizia a cercare file, l'ha trovato. Hai visto. Ieri c'è stata questa battaglia in Parlamento sulle firme, che è una cosa incredibile. Cioè, questa neonata formazione nata ieri in Parlamento sostanzialmente pretende di presentarsi alle elezioni senza raccogliere le firme. Sì. Mi pare una cosa ingiusta nei confronti di Grillo, di Sella, di Verdi, della destra elettorale. Sono una concorrenza francamente anomala. Si voleva fare un emendamento in cui si diceva che chi si costituiva il gruppo entro la sera stessa potesse presentarsi senza... Infatti, sono senza fioriti gruppi. Sono fioriti e gruppi. Francamente mi è sembrata una cosa intollerabile. E quindi tra l'altro la cosa era sul leitmotiv di Fratelli d'Italia, sì, cosa sì. Che c'è adesso, faccio un bel la gruppo. Battaglia la faccio alla maniera mia, insomma, creo un po' di casino in aula, ma almeno poi si discuterà un po' di questa questione. La questione è, ha fatto più male il fatto di essere stato fermato o l'accusa di non essere intonato? Poi ero intonatissimo, non ho capito. Sì, ma infatti, il presidente di turno mi ha detto era un po' di parte. Antonio Leone era il presidente di turno in quel momento alla Camera. Fratelli d'Italia, Del Debbio, com'era intonato, no? Insomma, no. Sull'acuto magari era un po', però. Non tanto. Ma poi l'hanno fatto l'emendamento o no? Non si sa. Ma stiamo bloccando, questo era un pezzo dell'ostruzionismo del Partito Democratico. Ah, l'ostruzionismo di Adinolfi che canta l'inno di Mameli, grande Adinolfi. Sì, la questione è questa, è una questione in realtà molto seria. Per la raccolta di firme si vuol mettere una deroga. Chi ha un gruppo parlamentare costituito è esentato dalla raccolta di firme per la campagna elettorale. Questo al limite sarebbe accettabile, ma l'emendamento voleva che anche i costituenti, non i costituiti. Certo, certo. Infatti c'era gente che andava, dove si va a costituire un gruppo? Si costituisce un gruppo per evitare la raccolta di firme, ripeto, con tanti cittadini, non solo il mio partito, ma stanno per strada a cercarsi le firme, quelli di Grillo, certo. Perché deve essere costruita. No, ma voi immaginatevi Adinolfi, c'è un ufficio dove si deve andare a costituire un gruppo alla Camera, l'ufficio di presidenza, ma immaginate la coda, gente che c'è un ex della Lega che vuole costituire il gruppo della destra di Storace, è così, è Del Debbio, c'è uno, no? Che voleva... Sì, no, ma lì ormai siamo... Certo che tristezza, però, che diciamo, il presidente Napolitano prima lo fa senatore a vita, poi lo fa fare presidente del Consiglio, poi dopo su istruzione di alcuni del PD, in particolare di D'Alema, gli diceva lascia stare, eccetera, e ci ritroviamo dopo un anno tutti a dire ma ora basta, ci vuole la politica, eccetera, e invece ci ritroviamo Monti in lista, insomma, francamente Monti che aveva detto mia mamma mi aveva sconsigliato stai lontano dalla politica, e infatti questo, ma si vede che poi gli piace e questo è il risultato. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, siamo qui con Mario Adinolfi e Paolo Del Debbio, rientriamo tra pochissimo. Adinolfi, scalda l'ugola perché non è finita per te. 24 mattino. Psichiatri d'Italia, fate la vostra diagnosi, dite finalmente chi è questo personaggio, altrimenti c'è il rischio che 4 escort in crisi di astinenza magari lo votano pure. No, ma che facciamo? Ma mandiamo, questa è la segreteria di ieri, ma che giorno abbiamo mandato? Oggi è il 21, ma che ho registrato? Che è il 21, questo dopo mi accusano di essere anti-berlusconiano. Questa è di ieri, la vera segreteria di oggi. Io ho un appello da fare a tutti i giornalisti. Quando dovessero incontrare dei politici vorrei che la prima domanda che facessero fosse: ma non provate vergogna, non vi vergognate. Caro Alessandro, c'è una pagina del Vangelo che dice che i cani stavano seduti sotto il tavolo del ricco Epulone ed aspettavano le briciole. Dopo 2000 anni, sentendo le vicende di Lombardia, Lazio, mi sembra che i cani siano saliti, si sono seduti e mangiano allegramente tutto il pane. A questi si sono accompagnati anche i porci, e il pane è quello che hanno tolto a noi e ai nostri figli, nella speranza che un boccone gli vada di traverso. Ti saluto cordialmente. Cesa? Avete detto Cesa? L'avete giustificato, scusato, sorretto. Ma è il caso Mele? Ma allora benvengano i Maya. Viva i Maya! Così al mattino presto che ritorni Mastella, uno anche uno stomaco forte non è che la può reggere, abbi per pietà. Già ieri la notizia della signora Bindi e ci basta, basta. Dunque avremo un rassemblement di destra, un rassemblement di centro, un rassemblement di sinistra, ma tutti di vecchi tromboni che ci hanno portati qui delinquenti. Io le ultime elezioni non ho votato Berlusconi, ma vedendo tutto questo accanimento che c'è nei suoi confronti, ti dirò che se vanno avanti così quest'anno lo voterò. Mila, Mila, il giornalista più forte sei tu. Mila, Mila, sempre con noi. Forza Dinolfi, è il tuo momento. Vabbè, giochi dai, su. Ma lì, no, Gobbo maledetto, canta, canta. Ma che dovete sistemare la mia Roma domani, su, dai. Sì. Pensate a quello. Domani andiamo a Zeemanlandia e speriamo di... No. So, canta, è il momento di abbandonare la fede juventina. So, del Debbio che squadra tiene, non lo so io. La Lucchese. No. Stessi colori del Milan. Punto, stavo dicendo, non è mica rossonera, va bene comunque, la Lucchese va bene comunque. Vabbè. Allora, vi devo raccontare questa. No, c'è un ascoltatore che ha parlato delle note spese della Lombardia. Sono 62 i consiglieri che sono sotto inchiesta. Vince il premio, udite, il consigliere Giuseppe Angelo Giammario, al quale i PM hanno contestato una spesa di 90 euro in gelateria ad Alassio. E lui ha risposto: è tutto vero, ho offerto il gelato ai bagnanti della Lombardia. Vabbè. Allora, ma questa è quindi incarico istituzionale, cioè spese istituzionali. Allora va bene. Cioè, me lo immagino sulla al muretto, vicino al muretto della lei di dov'è? Di Pavia. Va bene, tenga un gelato allora. Lei vabbè, no, è del Debbio, così bisogna chiedere. Lei è bagnante della Lombardia. Sì, allora le offro un gelato, no? Scontrino. Sì, allora poi scontrino, c'è la cosa che vedi a Courmayeur. Insomma, c'è. No, offro ai bagnanti della Lombardia 90 euro e quindi è istituzionale come spesa. E però da questa cosa non se ne esce, perché il controllo mentre hanno fatto un po' di normette sull'eliminazione di alcuni doppi incarichi, eccetera, e sul controllo siamo abbastanza a zero, su quello non hanno voluto sapere, sì, abbastanza controlli preventivi, abbastanza conti, eccetera, Dinolfi lo sa, non è che siamo andati tanto avanti. Quindi, no, ma infatti, ma tra l'altro a gestire i soldi, magari meno, ma in questo modo. Ma è sempre così. A Dinolfi, tra l'altro, in Lazio se ne parla più di questa cosa lì, di Francone Fiorito. Che... Ma un po' se ne parla, anche perché si vota. No, certo, questo sì, però... Anche in Lombardia. Credo che la valutazione, sai, Fiorito è in carcere, quindi non gli stanno facendo un'indagine, sta proprio in galera, quindi... La situazione è un po' più drammatica. Il consiglio regionale è sciolto, non certo, diciamo così, tra gli applausi, e in più fra due mesi si rinnova, quindi insomma se ne parla e come. Devo dire, io sono sempre stato sorpreso nella mia regione dell'assenza di reazioni forti. Io mi aspettavo manifestazioni davanti alla regione e iniziative popolari, zero, come ci fosse una sorta di rassegnazione, insomma, sì. Questo rispetto a tutte le enormità che abbiamo vissuto, e anche la segreteria telefonica racconta l'indignazione dei cittadini, però poi dopo come se non ci fosse una voglia di manifestarla in maniera... Ma zero, sì, c'è questa rassegnazione, in campagna hanno arrestato ieri un consigliere regionale, anche qui l'accusa di essersi rubato 60.000 euro truffati per false fatturazioni, rimborsate dalla regione, ma non è che sono le regioni il vero buco di tutto, mi sa un po' di sì, cioè il vero buco dove ci sono gli sprechi, dove le leggi consentono di aggirare, dove consentono di offrire, di prendere 90 euro di gelati e dire le offerte ai bagnanti della Lombardia ad Alassio, cioè questo così non so, del Debbio non se ne esce più, non se ne esce più, solo che io lo ripeto, sì, ma anche adesso che il controllo viene fatto, uno se la sfanga così dicendo davo 90 euro di gelati ai lombardi e non gli si può dire nulla, se la caverà così, non si può dire nulla, francamente questo qui ci arriva al buon senso, voglio dire, si può dire come. Però il punto vero è che se lo vuoi fare invece il controllo di altro tipo, bisogna fare un regolamento con un controllo e ci sia chi controlla, perché voglio dire, poi ci sarà qualcuno che dice se è legittimo o no, no? Allora, se lo dicono loro, è chiaro che è tutto legittimo. Sì, ma io ho il dubbio. Se ho detto dalla Corte dei Conti, il motivo era quello. Ma no? Certo, ma io ho il dubbio. Ma che è se... il giudice della Corte dei Conti a dire che Alassari ha comprato. Ma mi sa che la sfanga invece. La questione è questa. Non la sfanga. La Corte dei Conti, guardi, l'ho vista al lavoro in questi anni anche sui conti dello Stato. Tanto di cappello, la sfanga, no, non la sfanga. Ma poi la questione è che se uno si riduce, se io non lo so se è vero, cioè, ma se si riduce a farsi rimborsare con lo stipendio da consigliere regionale 90 euro spesi ad Alassio, ma vuol dire che siamo alla fine di tutto? Certo, come no, tutto, mignottocrazia, eccetera, tutto, si sono comprati benvenuti al sud. Ho visto un elenco di spese, il Tosei... Il Tosaerba, la motosega, la sega circolare, sì, la torba. Circolare da legno. Ma certo. Vince sempre il leghista che si è comprato il libro L'idiota in politica. Il titolo del libro. Il titolo era quello, L'idiota in politica. Ha visto che c'è quello che ha scritto note per un'autobiografia, no? Sotto. Ma poi Adinolfi, io non ho capito, qual è il problema di cantare in Parlamento? È vietato? Non si può, io cantavo l'inno, ma infatti come uno che va in Francia e in Parlamento si mette a cantare, lo so fa. lo prendono a calci. Voglio vedere, sono contento il fatto che sia stato interrotta. Sì, però voglio dire, un po' più di energia. La prima si fermi, ti sei fermato. In genere qua si va avanti. No, ma dopo tolto, staccato il microfono. Non è che boicottaggio. Sono andato avanti, mi sono accorto che stavo staccato il microfono. Boicottaggio, se no Adinolfi, mica lo fermi dicendo fermati. Vabbè. Alle 8 su Radio Yes, anche oggi non sei ancora in vacanza, no? No, niente, anche il 24, figurati. Mamma mia, questi lavori. Il 24 per vacanza? Anche sì, oggi è l'ultimo giorno. Oggi esempio, già in vacanza. Lo dico anche a te, Adinolfi. Polillo, esci da Adinolfi. Bisogna lavorare di più. Polillo, sottosegretario, esci da Adinolfi. Va bene, vi ringrazio e vi saluto, Mario Adinolfi e Paolo Del Debbio. Per essere stati con noi, Adinolfi, puoi sempre cantare se vuoi in coda l'inno. Siete cattivi. L'inno. A dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7:20 minuti per leggere i giornali con voi. Intanto vi annuncio gli ospiti. Alle 8:15 avremo l'onorevole Marco Reguzzoni della Lega, che ha detto non mi candido più. E faceva parte del cosiddetto, sempre che esista, sia mai esistito, cerchio magico di Umberto Bossi. Poi avremo ospite invece alle 8:30 fino alle 9. Dopo un lungo silenzio torna a parlare in radio Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, che viene dato per uno dei leader più in difficoltà in questo momento di confusione della politica. Oggi tra l'altro sarà alla conferenza, manifestazione in cui parlerà Antonio Ingroia, che arriva dal Guatemala. Che farà l'Italia dei Valori Antonio Di Pietro? E ne parliamo più avanti. Ora, come di consueto, i giornali in edicola. È venerdì 21 dicembre e siamo vivi. Intanto i titoli: Il Sole 24 Ore, fisco, pensioni, casa, statali, ecco cosa cambia, e lo speciale legge di stabilità che dovrebbe essere approvata oggi in via definitiva.

Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:16, allora oggi vogliamo parlare di politica, abbiamo due ospiti, il primo fino alle 8:30 con noi è l'onorevole Marco Reguzzoni della Lega, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. È stato anche capogruppo della Lega che ha annunciato non mi ricandido. Lei quanti anni ha, Reguzzoni? Io ne ho 41. 41. E sono alla prima legislatura. È quasi un ex della politica, si può dire. Beh, però fare il parlamentare non è l'unico modo per fare politica. Farlo in questo Parlamento, in queste condizioni, più che altro è inutile, come pare evidente, credo, a tutti. È inutile perché lei è stato anche capogruppo della Lega, poi raccontiamo della Lega quando c'era Umberto Bossi, insomma, poi racconteremo ovviamente magari anche qualche vicissitudine politica personale, se vuole. Perché è inutile fare il parlamentare? Ma guardi, noi siamo stati eletti con una maggioranza schiacciante per poter fare le riforme e tra queste riforme, prime tra tutte, c'era il federalismo fiscale. È di tutta evidenza che non è stato fatto nulla, non certo per colpa della Lega, per colpa del movimento che ho rappresentato che ha lottato fino in fondo per poter ottenere queste riforme che erano il nostro obiettivo. Beh, però avevate, come dice lei, numeri schiaccianti. Sì, però poi a un certo punto si è rotto il PDL, c'è qualcuno che è uscito. Al primo discorso della legislatura c'è qualcuno in aula, l'onorevole Casini, che ha invocato il governo tecnico di unità nazionale, cui poi alla fine siamo arrivati. Quindi... Ma adesso io non voglio, in questa mia decisione non c'è un'analisi sulle cause, c'è una constatazione purtroppo evidente. Che fare non serve a nulla. Cioè, non è servito a molto, insomma, mi sembra, in questa legislatura. Cioè, si può dire che in maniera legale si è rubato lo stipendio quasi? Rubato, questa è una parola grossa, nel senso che noi, comunque io ho fatto quello che ritenevo giusto fare, ho fatto oltre 1000 interrogazioni per dire... sollevando dei problemi che poi sono stati risolti. I problemi veri del paese però sono di tutta evidenza assolutamente irrisolti e sono ben lontani dall'essere. Insomma, non si era fatta neppure la legge elettorale che era diciamo dato per scontato venisse ritoccata. Ma cioè che fa adesso lei? Perché è finita la legislatura, non si candida, ha maturato un vitalizio, sì, l'ha maturato. No, nel senso che sono state cambiate tutte le regole, oggi il vitalizio non c'è per noi della prima legislatura. Io però ho sempre applicato il principio che mi insegnò Gianfranco Miglio, che personalmente mi consigliava, appunto perché ero molto giovane all'epoca e facevo il militante della Lega, di finire l'università e di trovarmi una professione, perché la politica non si deve fare per passione, non per professione. Io l'ho ascoltato, sono ingegnere gestionale al Politecnico di Milano, ho un'attività imprenditoriale mia, quindi sono tornato e quindi tornerò, insomma. Torna a fare l'impegno. Ma perché non ha maturato il vitalizio? Se ha fatto tutta una legislatura ce l'avrà il vitalizio? Ma perché c'è il... Adesso siamo passati al discorso contributivo. Sì. E comunque la contribuzione relativamente quanto è versato scatterà a 65 anni, cioè tra 24 anni. Sa che tra l'altro, infatti, è un problema che non mi pongo. Giuliano Amato ha proposto, visto che c'è questo rinnovamento della politica, si vuol mettere, che ne so, un limite a 2 mandati, va bene, però allora uno che fa 40-45 anni, diamogli un anticipo, perché mica possiamo farlo un esodato di Stato. Guardi, il mio modello è il modello del Texas, che è uno Stato grande come il nostro, come l'Italia, 50 milioni di abitanti, il Senato del Texas applica leggi sulla pena di morte, quindi non è un consiglio, è proprio un Parlamento vero, insomma, con i poteri. I senatori sono 30 e prendono $3,000 l'anno di rimborso, anche perché si riuniscono solo 2 settimane l'anno, sì, perché non c'è bisogno di riunirsi tutti i giorni, e ognuno di loro ha una professione reale, ognuno fa il suo mestiere e poi va a fare il senatore quando è chiamato a svolgere questa funzione. La vorrebbe così. Vorrei così, ma perché così uno rimane, capisce qual è il mondo reale. Io ho sempre seguito le attività dell'impresa, perché sapendo di dover tornare a fare l'imprenditore non mi sono completamente disinteressato. Insomma, ad esempio, quali sono le difficoltà che in questi anni invece che diminuire sono aumentate. Quindi lei dice rubare lo stipendio no, però si può anche dire che per come è ben diversa l'idea del Texas rispetto a quello che è il Parlamento italiano, insomma, c'è un sì, po' di... L'impressione è proprio quella che si rubi lo stipendio, siccome la dignità non ha prezzo. Io non ho intenzione di continuare a fare parlamentare. Questa è una motivazione personalissima, ma io la penso così. Senta, parliamo di lei, perché lei era capogruppo della Lega, poi c'è stato il cambiamento quando c'era Umberto Bossi, era il capogruppo, poi lei è stato anche indicato di far parte del cosiddetto cerchio magico. Ci sveli, intanto, esisteva questo cerchio magico? Oppure... Questa è un'invenzione di chi voleva male a Umberto Bossi, perché dire che io a 38 anni faccio parte di un ristretto numero di persone che è in grado di indirizzare quello che è stato ed era uno degli uomini più importanti e più potenti del nostro paese, a me non dava fastidio, dava fastidio evidentemente a lui. Ma l'invenzione di chi c'è? Chi voleva Malabossi? Chi all'interno della quelli Lega? Quelli che poi alla fine, all'interno della Lega, all'esterno, sicuramente all'interno della Lega, chi poi l'ha sostituito o comunque ha creato le condizioni per cui venisse sostituito. Ah, cioè ce l'ha con Maroni? No, non dico Maroni, nel senso che non è stato sicuramente lui ad aver inventato questo termine, però in tanti l'hanno cavalcato proprio e l'ha cavalcato chi aveva... Ma c'è una genesi? Cioè, se lei si ricorda la prima volta che ha letto, sì, da qualche parte, guardi, o chi l'ha detto per primo? Ma all'inizio, guardi, sono più di 10 anni che dicono che esiste questo cerchio magico, poi hanno iniziato a dire che io ne facevo parte quando sono diventato capogruppo, cioè, perché prima c'era Cotta, prima ancora c'era Giorgetti, prima ancora c'era Calderoli, c'erano altri che diciamo a seconda delle funzioni. La realtà è che nel momento in cui io facevo il capogruppo era ovvio che ero spessissimo vicino a Umberto Bossi e ne parlavo tutti i giorni, quindi ovvio che... Ma la prima volta che lei ha sentito questo, cioè, si ricorda, possiamo dire, è stato... Nel 2004, quando Bossi è stato male in ospedale. E chi l'ha detto? Cioè, chi è che ha detto questo? Ma ne hanno parlato i giornalisti, intendendo le persone che più gli stavano vicino, indicando altri, quindi non il sottoscritto, ad esempio. Comunque, adesso mi sembra veramente un argomento più di gossip che di altro. Ma la più sentita... Lei, tra l'altro, ecco, no, questa mi interessa. Lei ha paragonato più volte in vari comizi, ci sono anche gli audio, Umberto Bossi a Gandhi. Vabbè, perché vede, noi abbiamo un paragone forte, però se certo, un paragone forte, nei commenti bisogna fare delle immagini per rendere l'idea. Bossi si è inventato una volta anche la Marcia del Sole, che era una manifestazione contraria alla Marcia del Sale, per cui molti di noi, per cui il sottoscritto, hanno fatto 30 giorni in giro con le tende per tutto il nord Italia, insomma. Per cui è ricorrente all'interno della Lega l'indicare la lotta indiana guidata da Gandhi nei confronti della lotta che noi stiamo conducendo, perché più volte si è fatto riferimento al fatto che non deve essere innanzitutto una lotta che ha nessuno spazio alla violenza, ma deve essere una lotta di resistenza passiva. E le dico che in questo periodo, vista la voracità del nostro fisco, a me viene in mente molto, molto spesso di poter sottolineare o di poter dar vita a dei fenomeni di resistenza passiva, come fece Gandhi ad esempio con la questione della tassa sul sale. Ma perché Bossi come Gandhi? Cioè perché... Ma perché lui, perché Bossi ha sempre parlato e ha sempre indicato una via tra virgolette gandhiana di ribellione del nord e di chi è vessato da questo stato che è sentito opprimente. Oddio, di recente ha anche rievocato nella prima volta la presa in mano dei fucili, insomma. Sì, beh, ma poi anche lì Bossi usa come appunto delle metafore, non è quello che stiamo facendo in questo momento. No, ci mancherebbe. Senta, ma lei rimane leghista? Leghista convinto? Ma assolutamente sì, io da quando ho 15 anni, perché la Lega nasce perché si rievoca una cosa che esisteva 800 anni fa, cioè la Lega Lombarda, che è una cosa nata perché i comuni del nord erano stufi di essere vessati da un'entità esterna, che allora era l'impero e che oggi viene visto un po' come Roma, insomma. Cioè, però tra i gabellieri dell'imperatore e l'agenzia Equitalia oggi non so quale delle due sia meno cattiva. Quindi lei rimane leghista, vuol dire lei vuole Roberto Maroni governatore della Lombardia, lo voterà? Ma sicuro, se Maroni sarà il candidato della Lega ovviamente lo voterò. No, perché sa, cioè, nei racconti, nei resoconti parlamentari e anche dei giornali è che caduto Umberto Bossi si è fatto un po' un gran repulisti del cosiddetto cerchio magico e lei ne ha fatto le spese l'hanno tolto dal capogruppo. Insomma, no, attenzione. Sbagliate, perché anche i giornalisti devono essere corretti nel dare le cose. Cioè, lei si è dimesso dal capogruppo 4 mesi prima delle dimissioni di Bossi. Okay. Quindi la consecutio non è Bossi cade e Reguzzoni se ne va, ma è Reguzzoni se ne va e Bossi cade, che è un po' diverso. Però voglio dire, si parla di repulisti. Per dire, un collega, le dico una notizia, no? Sì. Maroni mi ha più volte detto che cosa voglio fare e che per me ci sarebbe stato spazio, quindi non Maroni la vorrebbe ancora in Parlamento. Maroni mi ha chiesto che cosa voglio fare, quindi nel momento in cui io gli ho risposto che non voglio fare nulla di politica a tempo pieno, ovviamente non gli è rimasto che accettare questa decisione, perché è una decisione mia, è prima di tutto una decisione personale. Quindi diciamo i rapporti con i vertici della Lega attuali sono buoni. Sì, poi vorrei anche ricordare a tanti che non lo sanno che la prima firma sulla candidatura di Roberto Maroni segretario è stata quella di Umberto Bossi, e questo fatto per noi è molto importante. Senta, ma lei Umberto Bossi lo sente ancora, lo frequenta? Ci mancherebbe altro, certo. Io come... Bossi lo conosco da 23 anni e lo seguo da 23 ci anni. Ci racconta un po' come percepisce questo momento in cui è stato, diciamo la verità, sì, padre nobile, però è stato accantonato, una pagina che si è chiusa, importantissima, ma si è chiusa per lui e la Lega. Sì, ma Bossi è innanzitutto un animale politico, quindi Bossi vede quello che secondo noi è assolutamente reale, e cioè che le condizioni del paese porteranno alla realizzazione del nostro disegno, perché che cioè? È un disegno di autonomia e di libertà del nord, nel senso che le ragioni del federalismo fiscale, nonostante quello che dica il governo Monti e quello che purtroppo ha messo in atto il governo Monti, sono ancora oggi l'unica soluzione per il nostro paese. E quindi, autonomia però non vuol dire più secessione, io le rispondo come diceva Miglio: in uno Stato in cui i poteri sono ripartiti secondo le logiche del nostro mondo, e quindi tanto potere ai comuni e più potere all'Europa, e lo Stato rimane un'entità che ha poco senso. Comunque se vuole rimanere, rimane per le funzioni residuali. Quindi, personalmente come lo sente? Amareggiato? Come lo definirebbe? Insomma, la Lega non è più il suo... Sicuramente è stato colpito negli affetti, e credo che questo sia capibile per quello che dal punto di vista personale ha passato. Lo vedo però sempre un uomo molto determinato, ma soprattutto credo ancora oggi l'uomo più lucido di tutta la politica italiana. L'uomo più lucido di tutta la politica italiana. Ne ho conosciuti tanti, sono stato molto vicino ai principali leader politici di maggioranza e di opposizione. Ritengo di dire questa cosa con ragion di causa. Senta, ha visto cosa succede alla Regione Lombardia? Poi ci saranno le inchieste, eccetera, ma accuse di rimborsi pazzi, diciamo così, che coinvolgono anche i consiglieri della Lega, anche molti consiglieri della Lega, Lecca, anche Renzo Bossi, il figlio di... che è stato un errore forse portarlo in politica così giovane? Ma guardi, l'inchiesta sulla Regione Lombardia coinvolge tutti, e quindi che evidentemente o c'è una sbagliata legge o c'è una malversazione. Ma lei da leghista che effetto le fa vedere che insomma si compravano anche i gelati? Sinceramente delle cose mi chiedo se siano vere, me lo sono chiesto più di una volta, a volte ho sperato che non fosse vero, purtroppo ahimè ci sono delle conferme. Stefano Galli ha detto sì, è vero, ho sbagliato, adesso ho fatto rimborsare il pranzo di nozze di mia figlia. Di fronte a questo cosa vuol dire? Uno che ha fatto come me 23 anni di militanza mettendoci spesso i soldi della benzina, anzi mettendoci sempre i soldi della benzina, e altro non è una cosa che fa piacere, e credo come me migliaia e migliaia di persone. E di Renzo Bossi è stato un errore? Ma è stato un errore la gestione di alcune fasi dal punto di vista politico. Il fatto però che si voglia dire che nessuno può fare... Renzo Bossi è stato eletto in Parlamento. Sì, è vero. Io le dico solo che la sinistra aveva 4 candidati in Regione Lombardia. Il figlio di Bruno Pizzul, il figlio di Giorgio Ambrosoli, si ipotizzava il figlio di Colaninno, allora a un certo punto uno dice vabbè, ma allora i figli degli altri van bene, e se Renzo Bossi decide di candidarsi e prendere le preferenze? No, ma infatti finché le ha prese no, però poi si è candidato una volta e le ha prese solo una volta. Certo, però si ricorda poi quello è uscito, la finta laurea in Albania, le spese. Queste sono cose assolutamente condannabili, e ha pagato dimettendosi, a differenza di altri che continuano a ricoprire il seggio. Mi dicono quest'ultima cosa: è vero che Umberto Bossi veniva definito come molto anche tradito quasi dai suoi stessi familiari, dai suoi stessi, cioè molto deluso, devastato da questa immagine che il figlio in questo caso ha dato di sé a livello pubblico? Sicuramente non sono cose che gli hanno fatto piacere, molte cose le ha scoperte anche lui, ovviamente mi è sembrato assolutamente chiaro. Credo che però la ferita di Bossi sia emblematica nelle immagini di una manifestazione in cui lui piangeva sul palco e altri ridevano con le scope in mano. Vede che però qualche sassolino lei se lo toglie con quelle. Con Maroni non può dire che è tutto a posto. Maroni aveva la scopa in mano, Salvini aveva la scopa in mano. Guarda, io ho fatto un comunicato in cui dico che alcune cose non mi sono piaciute, questo brusco pensionamento di Bossi poteva essere evitato. Dopodiché ritengo che il progetto della Lega sia l'unica soluzione per il nostro paese, e che non vi sia spazio altro che non all'interno della Lega. Questo l'ho sempre detto ai tanti amici che nel corso degli anni hanno deciso di compiere altre strade. Però sono assolutamente convinto. Mi dica proprio un nome, poi la lascio, che dice questo non fa il bene della Lega. Questo mi è rimasto qui. Non le do questa soddisfazione, perché anche quando altri sono andati in televisione dando a me degli epiteti sbagliati, molto pesanti, io ho ritenuto di non rispondere mai, perché noi abbiamo, finché io sono parlamentare, e lo sono tuttora, ho delle responsabilità dal punto di vista pubblico, e quindi se ho qualcosa da dire lo dico nelle sedi opportune. Se sono delle critiche importanti le faccio, se devo decidere di votare contro, voto contro, ma lei non mi sentirà mai insultare né un collega, neanche un altro parlamentare di un altro partito, bisogna dare l'immagine, dare il senso di una dignità delle istituzioni che credo sia importante per tutti. Intanto io la ringrazio, in bocca al lupo per la sua nuova attività imprenditoriale. Quasi no, non è nuova, non no, è nuova, nel senso che non fa più il politico a tempo pieno, in Parlamento, esatto. Tanto non serve a nulla, come ha detto lei. La ringrazio, buona giornata. Marco Reguzzoni, onorevole della Lega, ancora per poco, poi non si ricandida. E noi avremo invece Antonio Di Pietro tra 4 minuti dopo la pubblicità del meteo. Antonio Di Pietro oggi sarà alla manifestazione in cui è protagonista Antonio Ingroia. 24 mattino. Eccoci allora, eccoci alle 8:35 minuti, siamo qui ed è con noi fino alla chiusura del programma alle 8:55 il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Buongiorno, buongiorno Di Pietro, eccoci qua. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, vogliamo capire in questi 20 minuti che ne sarà di un partito che anche lei ha detto per sua stessa missione di recente, dopo la famosa puntata di Report, l'Italia dei Valori è morta. Però andiamo con calma. Io vorrei che intanto lei oggi andrà alla manifestazione in cui è protagonista Antonio Ingroia. Si candida secondo lei? In che forma Ingroia? Innanzitutto diciamo ai cittadini che oggi c'è l'ennesima fiducia del governo Monti, perché una fiducia al giorno toglie la democrazia di torno. In secondo luogo, io non ho detto che è morta l'Italia dei Valori, anzi vive vegeta, semmai è stata accoltellata ingiustamente e in modo iniquo, e ne pagheranno le conseguenze chi l'ha fatto. In terzo luogo, vorrei oggi, anche se piove governo ladro, c'è almeno un punto di chiarezza. Monti non è quell'uomo di parte, quell'uomo tecnico al di fuori del sistema dei partiti che voleva far credere, perché come vede utilizza Palazzo Chigi per costruirsi un suo partito. Ma adesso ci arriviamo, non mi bruci le domande quindi, su Monti e sull'attualità. Le domande, ma lei ha il diritto di fare tutte le domande che voglio, di rispondere per far sapere come stanno le cose, perché non vorrei che si guarda il dito e non si guarda la trave. Ma adesso cioè, guardi che ci arriviamo su Monti, non si preoccupi, ma su Ingroia, però partiamo da lì, visto che lei va da Ingroia. Le ripeto, si candida secondo lei, può essere una soluzione? Oggi certamente Ingroia dirà quel che intende fare, è una persona che ha servito il paese come magistrato, che ha detto che in un manifesto da lui sottoscritto come primo firmatario, ma che ha anche la mia firma, io ci sto, nel senso che su alcuni punti fondamentali, che poi sono i primi articoli della Costituzione, intende impegnarsi. Se questo vuol dire anche una discesa in campo al momento politico, è un cittadino italiano che ha tutti i diritti di farlo, e mi credo che sia meglio che in Parlamento ci sia una persona che ha fatto il suo dovere finora, e non quelli che finora, molto spesso, non tutti, ma parecchi, sono andati in Parlamento per non andare a San Vittore. È un paese però in cui tanti magistrati, lei, De Magistris, per citarne i due più famosi, a un certo punto della loro carriera entrano in politica. Non è un'anomalia, certo tutti si possono candidare, tutti possono entrare in politica, però è una cosa... Veramente non dovrebbe essere tutti, perché oggi, ancora ieri, è stato bloccato in Parlamento una legge che deve essere fatta assolutamente, di non far candidare in politica i condannati. Io non capisco perché i criminali debbano poter andare in Parlamento. Dopodiché io vorrei ricordare a lei e attraverso lei tutti gli ascoltatori che io mi sono dimesso nel dicembre 94 e ho cominciato a fare politica nel 97, quindi non mi sono dimesso per fare politica ma per difendere un'inchiesta. Vorrei ricordare che anche De Magistris, quando si è messo a fare politica, si è dimesso. Vorrei ricordare che Ingroia non ancora comincia e non sappiamo se si mette a fare politica, ma se si mette a fare politica è ovvio che deve dimettersi anche lui. Quindi voglio dire, vorrei tanto che quelli che criticano i magistrati guardassero all'interno dei propri partiti e dicessero se appunto è meglio candidare un Ingroia al Parlamento piuttosto che un Dell'Utri. Senta, ma dovrei fare nome e cognome. Sì, no, giusto, ci piace così. Al di là di Italia dei Valori, morta o non morta, i partiti, secondo lei, i partiti come li conosciamo, sono finiti, hanno un senso di esistere come prima? Perché si parla sempre di società civile, liste, movimenti, e i partiti? Guarda, anch'io sono società civile, noi tutti siamo società civile e tutte facciamo attività politica. Quel che manca in questo momento è la possibilità da parte dei cittadini di poter partecipare attivamente alla politica. Le cito due casi concreti. Uno, la legge elettorale attuale non consente al cittadino di decidere chi mandare a casa e chi mandare in Parlamento. se permette, vorrei ricordare a chi ci ascolta che io e l'Italia dei Valori siamo quelli che hanno partecipato al comitato referendario per la raccolta di 1.200.000 firme di cittadini per un referendum per abrogare l'attuale Porcellum, che non è stato tenuto in alcuna considerazione dal Parlamento e non è stato messo neanche all'ordine del giorno. Primo. Secondo, oltre a questo, c'è la necessità che i cittadini possano partecipare anche alla scelta dei candidati e non avere necessariamente quel che gli pongono i partiti. Allora, perché non fate le primarie come il PD, per esempio? Infatti, beh, no, se permette, noi le stiamo, non so il PD cosa fa, ma noi le stiamo facendo, invito gli ascoltatori a cliccare, come si dice, www.italiadevalori.it, li troverà. Dici chi vuoi candidare, o se ti vuoi candidare manda il tuo curriculum che sarà messo in rete e valutato da tutti gli altri, affinché tutti gli altri possano dire se sei una persona in campo, se ma chi sceglierà? Cioè chi sceglierà? Gli iscritti? Oppure basta farlo sul web, diciamo? Ci sarà una consultazione popolare? Certamente sì, ma ovviamente... Noi abbiamo adottato una regola sempre, quella di allegare al certificato elettorale sia il certificato penale che i carichi pendenti, eppure neanche questo basta, allora questa volta abbiamo adottato un'altra regola, che è quella della pubblicazione di nozze, vale a dire pubblichiamo prima i nomi dei candidati in modo che ciascuno ci possa dire guardate che io sono vicino di casa, l'ho visto che rubava la pera al vicino. E poi voi fate indagini, questa è un po' da magistrato, da vecchio magistrato, indagini preventive. Visto che non basta mai sapere, io personalmente sono stato attento, eppure qualche fregatura l'ho avuto. A questo punto chiedo aiuto a tutti coloro che ci alla partecipazione di massa, alla base, per poterci dare una mano nella scelta dei candidati. E comunque ripeto, l'Ingroia oggi dirà più chiaramente cosa intende fare. Una cosa è certa, ed è che l'Italia dei Valori ci sarà alle prossime elezioni, ci saremo con determinazione e ci saremo soprattutto ricordando ai cittadini che noi siamo l'unica forza politica che per 5 anni ha fatto opposizione, prima al governo Berlusconi e poi il governo Berlusconi travestito da Monti. A proposito di Monti, ecco, capisci a me? Il governo Berlusconi, capisci a me, non era ancora arrivata alle 8:42 d'Antonio Di Pietro. Senta, a proposito di Monti, allora anche Bersani ha detto non si vede in nessun paese democratico al mondo delle liste dei partiti personali o personalizzati, cioè mentre lei dice io dall'Italia dei Valori tolgo il simbolo Antonio Di Pietro, che ne pensa dell'ipotesi, è un'ipotesi, vedremo nei prossimi 2 giorni, che compaiano le liste Monti o lista per Monti o quello che sarà? Monti innanzitutto, se vuole continuare a fare politica, non può fare il solito professore che si mette in finestra e poi si mette con chi vince, deve scendere in campo, mettersi il suo nome e chiedere il voto ai cittadini. Questa idea, adesso diciamo le cose come stanno, di governo tecnico non c'ha proprio niente, è un governo del compromesso, se è vero come è vero che stiamo assistendo a un voto di fiducia al giorno e si toglie la democrazia di torno. Se è un governo che dovrebbe essere appoggiato formalmente, ad eccezione dell'Italia dei Valori, adesso anche dalla Lega, appoggiano a destra e a sinistra, e poi anche oggi ci sono 2 voti di fiducia. Questo vuol dire che non è un governo tecnico, ma è un governo del compromesso, che per far restare buoni quelli di destra e quelli di sinistra. A proposito, mi rivolgo a chi ci ascolta, se voi andate a prendere il giornale anche di oggi, a destra e a sinistra dicono tutto il male possibile di Monti. Bersani ha detto non è giusto che si faccia il partito personale, io quelle che ha fatto Monti non va tutto bene a sinistra. A destra gliel'ha detto tutti i colori, Berlusconi. Ma scusate, è iniziata la campagna elettorale. Scusate, perché oggi votate la fiducia. Questa è l'ipocrisia più assurda. Non bisognerebbe approvare la legge di stabilità, è un momento fondamentale. A parte il fatto che di stabilità questa legge non ha proprio nulla, perché questa legge fa quadrare i conti sulle spalle dei più deboli e dei più onesti, perché la cosa è far quadrare i conti e un'altra cosa è invece di togliere 3 miliardi alla scuola, alla cultura e darla al mondo dei paschi e dei fieni, una cosa è far quadrare i conti e altra cosa non far pagare agli scudati fiscali ma farli pagare agli esodati. Una cosa è far pagare i conti, l'altra cosa andarsi in giro con Marchionne che licenzia e che fa parte di un'azienda che ha sempre preso dallo Stato e poi quando si tratta di fare gli interessi propri se ne va in giro all'estero a fare gli interessi quindi propri. Non le è piaciuto questo endorsement di Marchionne ma è un inciuccio ed è una complicità nel modo di fare, sono tutti bravi a fare i padroni invece che fare gli imprenditori. padroni per altri con i soldi dello Stato. Che ragionamenti sono questi? Marchionne, che cosa fa? Ma delocalizza all'estero per stare in Italia e si prende i soldi nostri. Ma guarda che ha annunciato, che investe 1 miliardo a Melfi. I soldi però ce lo mettono. Beh, per la verità no. Ma chi l'ha detto? No, scusi, chi le sta pagando, secondo lei, tutte le casse integrazioni che si sta facendo, a cui ha obbligato lo Stato a farlo? Chi lo sta pagando? Ma quelli non sono gli investimenti, quelli però non sono gli investimenti. Cioè, non ci siamo capiti. Ha messo in cassa integrazione per poter investire. Se invece avesse investito prima, oppure se invece di mettere in cassa integrazione quel che ha portato fuori l'avesse fatto in Italia, avrebbe evitato la cassa integrazione. Dice. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Siamo con Antonio Di Pietro fino alle 8.55, poi ritorniamo insomma su Monti, l'attualità e sulla questione anche delle case. Adesso ci dovrà svelare quante case ha Di Pietro, glielo dico, perché abbiamo capito che non ne ha 56 come erroneamente ha detto tutte tante persone che lei ha querelato, però insomma questa vicenda delle case l'ha un po', ha un po' terremotato, ecco, il suo partito. Eccoci qua, allora con noi c'è Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Sa che Di Pietro, una delle battute che più circola sull'acronimo Italia dei Valori è immobili di valore. Lei ride, ma quell'intervista l'ha fatta ridere. A forza di dirlo, piano piano me li faccio dei risarcimenti danno. Vede, amico mio, se uno confonde, e non mi riferisco a Report, ma a chi ha poi utilizzato quell'informazione per giocarci sopra. Se uno confonde le particelle catastali con gli appartamenti, addirittura diventano case, succede che io scopro la mattina, alzandomi, leggendo i giornali, che ho 56 case che non ho mai visto in vita che mia. Poi a pagare l'IMU sarebbe stato un po' un problema. Sarebbe davvero un problema. In realtà io ho 4 appartamenti più l'azienda agricola di mio padre, che grazie a Dio sono benestante, ma non per questo. Però 4 appartamenti all'azienda agricola, accidenti. Voglio dire, sono 45 anni che lavoro, sono 45 anni che faccio il mio dovere, ho investito, ho pagato, ho fatto i mutui. Non mi pare che sia una cosa sproporzionata. Detto questo, chi ti accusa di 54 a 56, scusi, qual è la differenza? Su, faccio un po' di conti. Dopodiché è ovvio che tenga presente che su queste cose già 2 anni fa, lei dovrebbe ricordarselo, perché mi sa che proprio lei già me l'aveva fatta 3-4 anni fa. Sì. E già sono stati condannati coloro che per diffamazione, coloro che hanno detto questa cosa. Beh, 4 appartamenti in azienda. Quanto ha pagato di IMU, se l'ultima rata? Non ha fatto come Brunetta, non ha dovuto chiedere un prestito in banca? No, ho pagato regolarmente, sto pagando e ho pagato regolarmente caso per caso in tutti i miei appartamenti, ma che tutti, 4 ne so. Va bene. Mi dica questa cosa su Casaleggio, lei lo conosce bene, perché, sì. Perché ha gestito, che bella, ha gestito signor sì. Mi ascolti, vuol dire signor sì. Signor sì. Perché ha gestito anche il sito dell'Italia dei Valori. Ma è davvero questo guru un po' ermetico, un po' strano, un po' dittatoriale anche, secondo le accuse di qualcuno, che decide dall'alto tutto? Guarda, io l'ho conosciuto, ho avuto anche un contratto di lavoro con lui, perché quando ho cominciato a fare politica mi sono servito di lui, anzi mi sono servito prima di un'altra persona che poi non aveva fatto le cose come doveva farle, e tant'è vero che è stato condannato a sua volta a darmi 500.000 euro di risarcimento danni, che non ancora mi dà, evidentemente. Cioè Casaleggio le deve 500.000? Un altro. Io quando ho cominciato a fare politica mi sono dovuto servire di webmaster che per gestire il sito e per mettere in piedi tutto l'impianto tecnologico. Sì. All'epoca eravamo ai primi passi. Inizialmente mi serviva di un'altra struttura che poi invece, dopo aver usato il mio nome per costruire la struttura, mi aveva chiuso l'accesso ai dati, e per questa ragione il tribunale in primo grado l'ha già condannato al risarcimento danni di 500.000 euro che non mi ha mai dato. Perché io poi a tutti questi che sparano a zero contro di me la sera, nessuno dice che fine fanno la mattina davanti ai giudici. Lei fa le querele. Perché, quante querele ha in ballo? Non faccio querele, faccio cause civili. Cause civili, quante ne ha in ballo? Io guardi, per aver fatto mani pulite, non è una questione di querele, per aver fatto mani pulite, perché lei si deve anche porre da giornalista una domanda: ma perché cavolo ce l'hanno tutti con questo? perché, ma perché da 20 anni è tutto un attacco e un contrattacco, per l'amore di Dio. Io per aver fatto un'inchiesta, si chiama Mani Pulite, fino ad ora ho dovuto farlo per difendere la mia persona, e quell'inchiesta 353. 353 casi civili. Di cui 27 come diciamo così contro di me e 300 e passa contro gli altri. Ad oggi, tant'è che io li ho chiamati davanti, è ovvio che non ho mai perso una causa, sia chiaro. Beh, adesso era scontato, ovvio, Di Pietro no. Che perde una causa, ma non perché io ho qualcuno santo in paradiso, semplicemente perché ripeto, è troppo facile la sera sparare a zero, poi bisogna vedere se i fatti stanno come stanno. Sì. Ritornando a Casaleggio è una persona per bene, è una persona per bene che fa l'imprenditore informatico ed è un webmaster molto bravo. Stabilito questo, anni fa, all'inizio appunto, quando io dovetti rimettere in piedi tutta la mia struttura informatica, mi rivolse a lui come a lui si era rivolto in quello stesso periodo anche Peppe Grillo. Sì. Sia io che lui ci siamo serviti della sua attività professionale. Adesso lui ha continuato con Grillo, non so se ha solo un'attività professionale o anche un'attività politica, ma non credo. È una persona, è un imprenditore capace, per bene, riservato, dalle mani pulite, che fa il suo lavoro in modo professionale molto competente. A me ha dato un servizio, ha regolarmente fatturato e ho regolarmente pagato. Ritengo che dire male di imprenditori che fanno il loro dovere con professionalità sia una brutta cosa. Senta, Di Pietro, parliamo di questione di alleanze, perché per molti analisti della politica, lei, dal punto di vista il suo nome, Italia dei Valori, da solo non reggerà la prossima, come consensi alla prossima tornata elettorale. Lei con chi si vorrebbe alleare? Adesso oggi andrà a vedere in Groia, a vedere che cosa nasce da questa possibile candidatura. Col PD, per esempio, c'è ancora spazio? Io credo che la prima cosa da fare è stabilire un principio. Chi sta con le politiche del governo Monti e Berlusconi e chi non ci sta. Io sono stato all'opposizione in questi 5 anni perché ritengo che il primo si è fatto i cavoli suoi, utilizzando la politica per sistemare i suoi affari personali, si chiama Berlusconi. Il secondo, Monti, ha fatto il ragioniere, che per fare godere i tecnocrati d'Europa e per far vedere come brava a far quadrare i conti, le è andato a prendere più deboli e più onesti, e per questa ragione intento alleare le mie forze con le altre forze che in questi anni, dentro e fuori il Parlamento, si sono opposte a questo tipo di politica. Ecco la ragione per cui l'Italia dei Valori intende costruire una vera coalizione riformista che abbia una maggiore equità sociale. Il PD secondo lei è pro o contro Monti? Il PD veramente, è pro perché lo appoggia. A parte il fatto che l'appoggia, a parte il fatto che oggi voterà la fiducia, a parte il fatto che il PD, poi mi deve dire quale PD, perché stamattina ho letto sul giornale che dice Ichino, se non si appoggia la candidatura, se non si appoggiano le politiche di Monti, io non mi canto di. Quell'altro che dice, quindi voglio dire, bisogna sapere di quale PD parla. Certo. Beh, Bersani, adesso è il PD di Bersani. Il PD di Bersani è una cosa, il PD è un altro. Il PD, oggi come oggi, è una forza politica che, torno a ripetere, io rispetto soprattutto l'esito delle primarie, perché ha coinvolto milioni di cittadini, da cui vorrei che portasse avanti una politica che si fosse alternativa a questo modo di dividere gli strati sociali che ha fatto Monti. Ad oggi non lo vedo, mi auguro che lo possa fare una scelta di campo. Nel momento in cui Bersani dice comunque vado alle elezioni, il giorno dopo mi alleo con i moderati montiani, ha fatto una scelta di campo. Io credo che tutti coloro che non accettano tutto questo devono mettersi tutti insieme per cercare innanzitutto di convincere il Partito Democratico a ritornare sulla retta via e in secondo luogo di proporre agli elettori un'altra strada rispetto a quelle di chi paga e cita, cioè cornuto e mazziato. Allora, Di Pietro, noi abbiamo concluso, non abbiamo parlato neanche di Berlusconi, ha visto come cambiano le cose in Italia, non so, vuole dirmi chi è costui? Vuole dire una battuta alla Di Pietrese su Berlusconi in 10 secondi? Ma la prima volta poteva fregare tutti quanti, la seconda volta ne ha fregate alcune, la terza volta se si candida rimane fregata da solo. Ma siamo alla sesta, però, a dire la verità. E allora è proprio una fregatura. È proprio una fregatura totale. Intanto la ringrazio, buona giornata, Antonio Di Pietro. E che dire, io mi fermo qui, nel senso che mi fermo qui per questa. Ci sentiamo 7 gennaio, ve lo dico, cari ascoltatori. 24 mattino continua. Carmelo Lauricella mi manda a fare in culo, ecco, tecnicamente, con un gesto chiaro, come dire, disgraziato. Vabbè, torno il 7 gennaio dell'anno prossimo. Ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia, Carmelo Lauricella, ringrazio tutti. Ovviamente non mi ha mandato a quel paese, ma ecco, gli Alpini, vi lascio così. 24 mattino continua lunedì alle 6:30. Il reggimento, certo.